che sta sbagliando. Belabri. Chi è? Chi è? Ebbene. Grazie. Ehi, dimmi. Ebbene, la batteria si che manda, dai. No, stavo facendo cosa stamattina? Non ho avuto tempo. Avanti, non ho giocato. Ti farà venire a vinca, dai. Tu mangi una giugana. No, è ogni giorno che ne vogliamo. Troppo peggio, sai chi è. Vabbè, ma sarà qualche cazzata, dai. Sono una scemenza. No, gli ho mandato l'email. Mi ha mandato la risposta, mi ha scritto in inglese. Adesso, più tardi, mando il messaggio a mia nipote, che lì sa tutte le lingue, che era in Inghilterra e adesso è rientrata per le ferie e in campagna. E me lo faccio leggere da lì cosa c'è scritto. Tramite WhatsApp, gli mando la foto e lì me lo descrive, no? In italiano. Dai, è importante che vi sistemate, dai. Ma se la batteria te la dovrebbero dare, se è in garanzia, te la dovrebbero mandare un'altra batteria, sempre se dipende dalla batteria. Però mi sa che è strano dalla batteria, perché è una ricarica, mi segna tutto ricaricato. Vabbè, possono essere magari tutto caricato perché hanno caricato due magari di batterie e l'altra magari avrà caricato un poco, ma sarà sempre imballata e dunque non mi fa fare i 25 km orari. Secondo me è così, il mio parere. Poi bisogna vedere cosa male tra tuoi tv. Più tardi mi mando il messaggio a mia nipote. Non so cosa dirti, grazie. Non so cosa dirti. Perché anche nella, per dire, nella, nella sveglia che ci sono tre batterie in quella che c'ho io, anche se ce ne sono due, funziona lo stesso, però cosa succede? Rimane indietro sempre di 5 minuti, perché vuol dire una batteria è mezzo battuta, compresa. Allora io ne cambio una e provo, ne buco una e ne buco una volta e la provo. Se va giusta vuol dire da quella mezzo battuta, compresa. Bisogna vedere così, bisogna provare così. Ma mi sembra strano che sia la batteria, come stai dicendo tu, perché nel caso ti dice carica tutta quanta. È da vedere il problema. Se ti fa 15 adesso e prima te ne faceva 25, di sicuro qualcosa c'è. Adesso gli mando l'email. Vada, glielo mando, ci sentiamo più tardi, così vediamo cosa mi dici. A chi, io non li comprendo cosa mi scritto in inglese. Non c'è problema, ci sentiamo più tardi, grazie. Thank you. Attento Luca. Ora, ora, ora, prova, prova, prova. Claudio, mi senti? Ora, ora, ora, ora, ora, prova, prova. Manuele, ci sei per una prova? Manu, attento Manuele. Tre Rudi. Tre Rudi. Ma mi hanno detto che proprio Rugani è bussata da Reddo, vero? Ecco, con la faccia da pirata Rugani era. Oh, i generali molto Rugani, poverina. L'ho serrata, gli ho fatto anche il funerale. Già me l'ha detto Trucchetti. No, per risparmiare me l'ha fatto Musina. Ma vai, dammi, per risparmiare. E allora? Adesso la motoretta, prima al tassino numero 3 arrivava a 25 miglia, camminava più veloce. Allora mi cammina 15 miglia anche se metto il numero 3, il tassino. A 15 miglia dovrebbe andare al numero 2, invece funziona pure al numero 3. E non mi segna 25 miglia. Mi sa se pure anche rallentata. Boh. Che c'è qualche batteria? Mettile in carica e poi provale col tester. Per vedere. Può essere. O non sta commutando dall'acceleratore, cioè dal tastino. Capito? No, io l'ho messa sotto carica ieri. Da mezzogiorno e mezzo sino alle 5:30. Sono sceso a vedere e mi segna tutti i tassini carica. Poi l'ho presa e l'ho provata. Ho messo prima uno, vabbè, cammina piano, poi a due che dovrebbe andare a 15 miglia e poi l'ho messa a tre, dovrebbe andare a 25 miglia. E invece mi va sempre, ci arriva il risultato sempre 15 miglia a scritta. E anche come velocità mi sembra anche più lenta. Boh, mi pare più veloce prima. Non credo sia questione di batterie. Batterie sono nuove comunque. Ma non è che ce ne sia qualche di una mezzo scarica, mezzo partita. Però come mai è strano, me le segna tutte cariche, ma anche se ce n'è una mezza partita, te lo segna ugualmente tutte cariche. No. E tu prova a misurarle, a vedere se misurano tutte lo stesso. Viraggi sempre alto, non vorrei dirci, no, non lo conosco come si misura. Mandami la foto. E di che cosa? Del tester, no? E adesso ce l'ho conservato nel suo posto, domani mattina me lo scendo. E io ho comprato già da un annetto. Ho comprato quell'automatico, non ha di Gosino, fai un cellulare. È automatico, puoi misurare fino a 380, 12, 9 volt, 10 volt, tu in realtà chiedo di misura senza bisogno di spostare niente, anche perché non ne ha selettore, capito? Mi sembra me l'avevi fatto vedere che lo avvicini e ti segna quando stavi facendo quel lavoro di quelle lampade a raggio solare. Esatto, quello lì serve, vedi, c'è anche quello lì, se tu per sapere se c'è una perdita nel muro, appunto un cavo spellato, così lo avvicini e ti segna dove la perdita, dove il cavo sbucciato. No, ma con i due puntali tu lo metti nella batteria e in automatico ti segna, non devi far nulla. Lo so, ma bisogna girare come TV, non lo so, capito? C'è scritto nella batteria. Quanto sono? A 12? Mi sembra di sì. No, un pezzo di sacchetto in bocca, va. E allora, prova a misurarle, solitamente salgono di più di 12, Sì. lavabo, non lo so. Al limite domani se esco, ci sei tu. Passo lì e me lo misuro con quell'affare che c'hai tu, che fai prima. Avvicinati, se viene bene, se non c'è da smontare carene, mica carene. No, sollevo la sella, c'è un coperchio, altro coperchio vedi le tre batterie. Non venuto da smontare, è in caso quel coperchietto, anzi una letta mi si è rotta, l'ho incalcata troppo e ce n'è una adesso. E incalcò quello ne esce il tappo, capito? E vedi le batterie, che si vedono, e si possono misurare con quell'affare che c'è tu. Eh certo, e io avvicinati pure. Luca non è qua. Ci sei tu domani mattina. E io. E allora mi avvicino e ti suono il campanello, Marianini, e quando suono lo citofono pure c'è. E io, c'è anche il citofono. E la misura, ma che cazzo mi do, non ne comprendo un cazzo il sugo. Ma l'ho comprata, non l'ho mai usato, cioè l'ho provata, ma non ne comprendo nulla. Ma non è che l'hai brissata a Luca e sa molto, no? E te l'hai passata, no? Che è dove andato due ruti? No, questa cazzo. Non lo so, l'altro giorno tu eri Luca, quando stavo scendendo dopo il Barsan al semaforo. Certo che ero io, tu eri su Lenini. A te che ti cuffetta! No, perché stavo andando lì nella pasticceria, non è visto che mi sono fermato. A ritirarmi le passe, perché sono salito a Sassari, da tutto Zarrada, ho detto, ma vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, e sono andato lì. Ancora Rizzo, ribatti, se compara, siamo motivati. Adolcissi la bocca. Ci passa, ho preso mezzo chilo di pasticcini. Cazzo, beh, non ci crederai, ci sono ancora, mi sembra, 4 o 5 passi in frigorifero. Oh, io quando ne mangio una, è troppo dolce, capito? Ne ho mangiato una, ragazzi. Mi sa stata la glicemia 290. Cazzo, ma non fossi mangiato. Via, per carità, non ho mangiato una, 292 mi pare. Una ne ho mangiato, è una di quelle frittelle col buco, non fai manco crema. Ha detto, beh, là giù buono cucciolata, che sopra ve l'ha detto lo zucca. Puzzino, già vedete se mi si rassalda. Non posso immaginare. Me ne sono accorta che immaginate dopo di un quarto d'ora, 20 minuti, chi si è vampata di calore, mi qua, mi sono pure un pasticcino, qua, ce ne sono, non pasticcini, dolci, tre ce ne sono rimasti. Un pabassino, un amaretto e uno al cioccolato. Non ne mangio, sono i chili, ma non ne mangio. Anche per Luigi sono dolci. Ma però se me lo mangio mi ce la sale subito, te lo sto dicendo. Anche se magari un paio di volte mi mangio 5-6 caramelle la notte guardando il televisore, no? Alla frutta mi stai usi anche la menta. Intanto se per 190, 200, 210 mi si lasciano ma stessi. E già ti credo. Dico non ne mangio, mi sono i chivi, mi sono abbaidendi. Cazzo, oh Luca! Cosa? Non ho capito. Che facciamo? Il trapianto di pancreas? E a si buffa. Chi sono i bocco zibonimmo? Guarda che molti interventi che fanno all'ospedale ti mettono vari accessori di maiali. Questo gli accessori, io sono una macchina. La parte del fegato, la parte di la missa te la puoi giamba. Luca! Mi sono appena rientrato, grazie. E poi vedi. A fare la seta. Se già mangi poco, già, buh! E vabbè, in una casa non abbassa mai. Arriva la sera, sono andato in giro al supermercato, allo trenino. Abbigliacchio, mi giro 50 euro, cazzo, chissà chi devi abbigliare solo la morbidente, boh! A Gesù sappiamo per andato! Tu andavi alle Ruppi o da Mauri? No, ma sono andato qui al trenino o al supermercato che c'è giù, a Sant'Orsola, giù alla Budiguiti, lì vicino. Anche lì vado, già si compra bene, quello è della piazzetta. Lo so. E lì sono andato già tre volte col supermercato, già si compra bene. Qualche gli articoli che devi guardare, anche i minigiochi che ti costano di più dell'Eurospeed, però di media siamo lì, là, anche all'Eurospeed c'è la roba barata e la roba cara. Se tu guardi bene all'Eurospeed, già ti tassano il conto, a me mi tassano sempre un conto. Sempre quota 130, 140, 150, 100, sempre così mi esce quando arriva la cazzo. E anche a Rosario cos'è che ti butti? Se io mi rubo ancora, magari se rubo ancora gli rubesci. Ti vuoi pigliare di rigozzi, cazzo, vedi la ghita o vedi le spigole. E allora gli emiglia pure 3-4 spigole, capi? Però da piccoli tecci, mi gli danno la bacia, mi gli allascia, cantati per la caccia, gli tagli lo zocco. Ho 5 minuti, arrivo subito, prendi lui. Luca! Caggiù due mi. Era per tenere la gnatta che l'ha aiutato i calamari al sughetto piccantelli. Un piatto veniva e si era lamentato in ammagnà, davai Pasanelli, deve essere brucia la ringa. Spero. E allora? E beh, Luca, caduto sì. E beh, pensa dove vai, Giommari, non te l'allarghi la porta. Cosa c'è? La Ianna non l'allarghi. Ah, della fine, non sta la giovacculo. Sai, boh, mi rudi a Luca, il marrano di rubarsi. Oh, saranno. Oh, da sempre a die, da sempre a die. Perché? E invece è bella, ti fai i denti, sembra ricorsi. Ah, Luca, ben passa San Maria. Desiro, desiro. Già so che va a bisano, dai. E non la via. Beh, aiutata. Oh, da sale fai, ma no, non li pigliano. Oh, ma cappezzati, dai. Tira giù a passeria, grazie. Io so che fai andare. So che va a rimanere in giro di manzana di sera. Appena mi bisogno di tutti i chilometri. Oh, no. Ah, no, assieme al 10, che meglio. Oh, cazzo. Non la via, non l'ha mai trattata, che si può immaginare. Ma poi no, non li posso essere sul travaglio, capito? No, la biglia e poi non li posso travaglio, capito? No, non mi conviene, ecco. Non mi conviene. Anche la bicicletta dai, venuto. Cosa? Pure una bicicletta elettrica ti è venduto. Avevo la bicicletta elettrica. Avevo la bicicletta, l'ha aiutata. Aveva il motorino, lo scooter, l'ha aiutato. Avevo questa, oh, no, saranno. Lo scooter mi raggiunge, grazie, non mi hai visto per avere lo scooter. Ehi, già l'ho visto, ma no, ma via pure la bicicletta, infatti non venire al magazzino manco bicicletta, pure lì sei fatto pure, boh. Manuel! Cazzo! sì, c'ha pure, ci faccio pure, già. Magari che l'abbia data la bicicletta. Ah, Giuseppe è tornato. Sì, a Giuseppe è tornato la giovata. Così che... lo scooter l'ha giovedì da una che ci ha diviso la Manuele. Già. 2 anni era la 7 febbre in magazzino. Non l'ho mai trattata. Così che, no, è per me, dai. Ormai, a piedi Camilo, a piedi. Ma, paghi su chi cammina, andava di piano, mi stavi fatto gli giretti, scusato, Da sempre un die, che è meglio, grazie a fine. Tu hai fatto bene, l'hai abbigliata, sicché... Dai, godita là, sei tranquillo, ma io non invito, no. Oh, ma cappessato. Oh, si la voglio vedere oggi, apri la componente, e l'abbiglio. Lì la giudizia ha un computer, cadè, a rimane. No, ma cappessato, dai, da sempre il die. Tomari, scusate un attimino, ciao, grazie. Passa un attimino al 23. Ciao, Do! Aspetta, grazie, aspetta. Già siamo qua, c'è anche Luca. Ebbene, Mortugese, Luca! E Luca! E io! Occhio, non te ne avvura, Nemi. Ti abbiamo sopra il carattrezzi. E cosa? Senza te si bosani. Ma che stai dicendo? Ah, E cos'è il polinato carattrezzi? A te impara la moto. No, che già anda la moto, trasporta anche il carattrezzi, la ganso. Ah, ne ho preso, te ne avvurani. Ehi, per l'allarme. Ah, l'allarme però, godice. E allora, c'è anche l'allarme in quella moto, c'è la retromarcia, l'allarme, il blocco a terzo. Lo stacca a batterie e funziona lo stesso l'allarme. E poi c'è il lubrificio del lucchetto. Sì, che è un travaglio ogni volta che ti fermi in un negozio, così. Luca, cagamella! No, quando mi vado al negozio, giro la chiave e metto il blocco a terzo, schiaccio il tastino e metto l'allarme. Si tura d'occhio, sta vicino in zona. Ma il tello? Sono, no, io rimane, mi sono dimenticato, quando sono uscito dal negozio, mi sono capitolato e ho cominciato a suonare a lampeggiare, come le macchine. Se ci vai un coraggio a pulire l'allarme e poi entrare in pasticceria, No, in pasticceria no, nel supermercato, è vero, nel supermercato tu entra a dentro, vai giù, capito? Luca! In pasticceria è nata la Gianna, ma... E poi non vedo un cane. Luca amica, mi ha visto che era venne a mare a farsi il bagno. Vento a cenera, Luca! Però lo mangio di cucina, piglia la ciaffi, con gli abbassi! Infatti, da poi ha detto, cazzo, da poi mai tu era venne a mare. Si fa un vento gico. No, ci stava bene, ho fatto anche il bagno. Ci stava bene, là. E il bagno male, la gente. C'era un bel che mi si spudicava, l'arietta che c'era. Infatti sono uscito e mi sono subito asciugato. E che fai cazzo, veramente no che non veramente il mare. Il mare magari finirà di più. È vero. Luca, caramella, Gio Maria, ripeti tu. Sei pittinato il costume. Che stanotte andava in spiaggia mia, cos'è grazie a 20 granite? A cosa? A 20 granite attaccando il carruzzo. No, che la sabbia non fica mia, che si sprofonda. Non si vanno in questa bicicletta a 3 ruote in spiaggia. Che vanno il carruzzo attaccato, vendendo gelate granite. Oh, magari quella sì, perché c'ha le ruote grandi, capito? La bicicletta e me l'avrei abbigliato questa bicicletta con un gestino da rito a pedalata assistita. È bella, è comoda anche quella. L'ho visto dei film lì, e cammina bu. E ti sa per esempio di andare lì se spiaggia? Attacchiamo un carruzzo, granite, gelati e isata di mare. Luca, ti ci voglio. Anche il quadro va bene, mi avrà detto un bilancio nel ventennio, a chi interessa, 2000 euro. Cosa? Ma mi sono dato a 3 ruote, 2000 euro. Il quadro ha 4 ruote e il motore è 100. Il quadro ha 4 ruote, cos'è? Capita, questo motore ha 4 ruote, con i gomme grossi. Ah, il quad, ho capito, il quad, sta vendendo 2000 euro, è il nuovo ruolo. Non mi sono un gelato, fa far passare un po' la glicemia, quella giù bassa. Ragazzi, mi lavi. 53. Ah, sai, un due che si fa mi si farà da 35, merda che la farà. Ah, si è già maggiorato, mi non hai compreso, grazie. Quella due ha usato il tono in bocca, cioè, infatti parlano a farli bacia a sala glicemia. No, io il giorno mi ho mangiato, veloce, mezza zuccherina di zucchero, con bucciari e di merendini. Ma se ti sei stato dato il cusetto la busta? No, invece poi ce l'avevo a 142. Cazzo, ma mi lavi a 35. C'è di fare a Paoletta e il cugino ha bussato. Ragazzi, mi lavi a diazza, un braccio. Boh. Casino. Oh, mamma. No, mi lavi sempre 200. 220. 190. Sempre anche 200. 210, 215. Pure 289. Bah. Ha detto che non mangia nulla, ecco la rete, quanto è deperita? No, io prima di mangiare mi davia 135, stamane mi davia 117, e poi più tardi me la misuro, prima di cenare, chi da poi oggi non ha giocato mi mangio uno yogurt e buco. E poi me la misuro la notte a me mi butta, a chi ha bisogno me la televisione mi mangio sempre le caramelle, 5-6 caramelle, capi? Anche qualche corretto, qualche volta, non ne ha di ma quasi. Vabbè, ma Giucca mangia la frizzone, Gesù. Intanto è 2,20, 190, 2,10, 2,30 anche, pure 2,50. Dipende dalle caramelle che mi mangio. Vabbè. Non bisogna abusarne. Lo so, cazzo, ma io mi annoio a mettere il televisore, cosa mi bocca a mangiare, così divento una gufa. Che ho aumentato... 2,5 kg è aumentato. Andiamo, pesavo in genere 170, 171, 72. Cavale mi sono gubizzato e pesavo 174. E 174. E allora, dopo pranzo ho pesato. Mia, se mi bisso. 175, che cosa è diventato proprio un boia? Ah no, boga di ruzzetto, 75, adesso mi pesa. Mi sono pesato io, 78 ho peso. Allegra di me, pensavi il re di me. Ma cosa la vita? Cosa la vita, se lo sa che sono i grossi che faccio? Che sono burro, E beh, per l'asta! Andiamo, chiede! Luca! 75,8! Cazzo! Boh, così poco! Portaci un virtuoso di... frittato, boh! Un fiato, so, con rompo, boh! Ma stamani il 74. Ci badia a pranzo cosa ci mangiato. Praticamente mangiandomi quei calamari e poi le zucchine fritte. E poi cosa mangio mangiato? Poi cosa? Ah! Il capolazione ha suffugato con la riva. Però mi ha mangiato un panino solo con quella roba lì. Luca, la tua con la radio che hai messo, Ah, Luca, la tua con la radio che hai messo. Ehi. Io rivolgo il sentore, tirare qua va, rivolgo. Beh, ma con dell'accento. Tenete la cucina allora, sentore lo di voi. 150, mi chiedono la portafoglio, li vuoi? Non la porto via subito. Lo gavo, forse lo filtro buro, dai. Che ne sei in culo. La lume, la vendi? Su, copra il vento. Allora. Mi più varà quando la buona vendì, Una massa del sasso per lo beccudì, Sì, Binghinoso, so per dire. Sì, Che padre che sì. Ah, capo. Ma me la vendi? Ma 650, 640, no, gli do, non ti manco. A quella spedizione, buono voi. Se buono se uno sta a Santa Maria di Bisa, le porto la spedizione. Asperia. Ma lui ti do un, mi dai quella radio, ti do un Home Tiat, ma sopra con zocca, mi dai questa radio con l'Home Tiat, io dell'LG, DVD, DVX, USB, cosa cazzo che non fa, io, questa mi dico chi sa radio questa. Devo monetizzare, voglio prendere il TS2000. Più TS2000, sì, tanti, prima, non bei genti, no, conveni quindi di là. Ripeti, grazie, riprendi. E quella che radio, dove l'hai messa? Su WhatsApp, dove l'hai messa? Compra e vendo. Ma ragazzi, la facciamo con la moto? Ma te l'hai pigliata, mercato delle pulci. E ora c'è il mercato. Beh, mi serve la moto a camminare, non camminate e cammini molto. Che bisogno di chilometri che fosse in moto? C'è la radio roba nuova. Mi è dritta la busta in uno sgabuzzino, ma... Ah, io lui, 200, li vuoi? Dai, te la porto via io, 200 euro, li vuoi? Grazie, che sono a quadribanda, mi non siamo fatti tanti baracchini ci pittori, no? Ah, vero? Ah, vabbè, ma in quattro ruote non ne ho, ne ho tre. Lui ti conviene darla e sa mai chi passasse questi anni tutti, occhio. Per quello la sto dando, sa mai. Prendi l'offerta, 200, io. Dai, ti do anche il typhoon questo qua, bene fa, io. 200 più il typhoon, io. Ah, ma la moto? No, lo zip ti do anche, io. Ci stai, ti do lo zip e vedevo la radio, io. Ti do io quella cristalliera che avevo messo in vendita, fai il cambio. Grazie, ce l'hai ancora? Se siete dei sende boccoli che ti fesce lì, fate la bravi. Perché? E che magari vieni razza a mamma, mamma te la comprerebbe. Cazzo che vieni razza? Sì, tu hai una subizione, tu hai due bocchigliata, mica in due pezzi. Cioè poi te la... Ehi, cos'è che fai a bozzi? Le piccassetti, sta strigarci con i spazzelli e ci sale... A tutti vi ammazzo, Ok! Oia! A te la compare c'è una moto zappa senza cingolato. Lei ha leggito... Tutto compriamo. Questo non lo 100 watt, neanche la teloce vi sentite se parlo io. Due viaggi, il pezzo di sopra, prima. La bomba, sì. Il pezzo di sotto. 100 watt, 100 watt, 100 watt. Vabbè, grazie. Audio! Cosa c'è? Lato, sì. Ci sono i due portoncini blindati in due... Cosa c'è? In quattro e cinque bastasse un portoncino. Una vergogna, ci smidollati. Io lo sento, Graziano, ma lo sto sorpassando. Me ne sono accorto, infatti. Cosa è coppa? Ciacla! No, sto usando 100 watt. 820H, chi è che sta vendendo radio? Compro, vendo, scambio, chi è? Io sto vendendo una radio a forma di mangagliù. C'ho una scatola di formaggini, se serve a qualcuno. La prendo io. Susanna? Io ho due di grappalaro. Va bene, se la volete. Cos'è che stai vendendo, Luca, 700 euro? TS2000, cosa ne vale TS2000? Fammi da in PMR. Non c'entrano i ladri. Ma lo buono il remoto e ti avvisa quando vi sono i ladri. Sì, quando ne hanno gli affurato, però. Vai, la giubbo sul GPS. TS2000 è una radio che fa tutto e non fa niente. Io l'ho comprata nuova e me l'ha venduta da voi 6 mesi. Bah. KK e poi, Paffagosa, non c'è più nessuno, né V, né U, nessun logo, vanno tutti morti, c'è. E poi sono tutti contenti il gas dell'altro. E beh, Gico! No, aspetta un secondo, arrivo subito. Perché sei così basso? Che antenna stai usando? Eh? Che antenna stai usando? Brava. Ma mi mancano 2 segnali però, come mai? Metto 2 segnali. Sì. Siamo venduti. E tu, Luca, cosa stai usando? Io sto per capire la differenza della radio, è perché sto usando quella base. Lì c'è il 90 dalla sala. Con l'antenino, quello che hai fatto tu, piccolino? Eia, sempre quello lì, telescopico. Brecca, brecca, mi sentite, eh? Eia, chi è che sta breccando, mi sentite? Abbascia le volte, non siamo mancati, no, qui? Aio, dai, tra, ti rispondi. Ma se tu fai brecca, brecca, mi sentite, scusa, eh? Cazzo pare Antonio Tarretto vendendo il bescio. Come intendi se è coso, sì? Mi so con Antonio Guido di Rubescio. No, no, non hai capito. Guarda che Antonio Benelli, così chiamato, io chiamavo Antonio Tarretto, il compare mio fratello, stava sempre a voce in radio, no? E t'ha giudito, mi pare Antonio Tarretto. Lo so, anche Tonino Kawasaki lo stavo mancato. No, sei tu, tu sei Antonio Riserva, quello là era Antonio Tarretto. Bene, comunque mi senti, solo tu mi senti come lo sarà. Sì, sì che ti sento, alla grande. Lo sentite Antonio Riserva? Io no. Se c'è l'antenna di plastica, voglio vedere che hanno della buona che ci hai tannerato. Vabbè, io sono in campagna, eh. Io non lo sento. Addio, nessuno ti intende, mi Antonio, avevi ragione. Tutti con l'antenna di gomma sono. Luca, Flipper, lo senti tu? Poco, dalla sala poco. E dall'altra parte? Adesso mi avvicino in cucina, vedete. Prova a vedere dalla cucina, perché è in campagna, quindi è vicino a voi. Cazzo, sono qui, praticamente si può dire che qua non mi aveva nulla. Se non mi intende niente, siamo arruinati. Antonello già lo sento. Oh, lo senti Antonello? Sì, Antonello, si va, Antu. Antu, mica ti ha chiamato Luca. No, niente, non l'ho sentito. Fondo scala, Luca, no, chi è? Adesso come ti sei spostato, sei a fondo scala, Luca. E sono in terrazzo, qua, dalla parte di davanti. Boh, Antonio, poco e niente, quasi zero, strano. Aspetta che adesso ti sento, sono... Adesso ti ha sentito lui. Mi ha sentito? Sì, vero Antonio? Sì, quando ho detto sono in terrazza. Fai qualcosa Antonio, io costruisciti qualche antenna. Datemi 10 minuti che io devo mettere a posto qua, che era un casinato. Riprendi Lu, fai girare tu, dai. Eia, dai, dai, sentiamo dopo. Luca, bambolina. Grazie, tutti muti sono. Tutti fuggiti sono. Luca, la camella. E quella mascigande, sa che sono senza abiti. Ma che hai detto? Se sei mascigande, sa che sono senza abiti. E Luca, con i baffi. E poi graziano di altri bassiccini pure. Graziano, bassiccino. Ma, la vostra mangia dei bassiccini, mi? Perché tu dici male un guisarrati, c'è buh, cuppo. Cuppo? E tanto tendi a mancare di radio. Aspetta, prendo il bifong, il bofeng. Il boyfeng. Se non sta scaricando la batteria, perché ma l'ha assorto la batteria si succhia. Come fai tu, no? Ecco bofeng, come mi senti? Come baffi, sembri di Maurizio Costanza. Questo pure c'è la batteria, una tacca. Una cacca? Ha una tacca la batteria, produce. Beh, allora come mi sentite con questa radio? Bene, forte, chiaro, limpido, recuaro. Come un gabbiano. Momenti come un gabbiano. Ma non mi sentite bene? Ho voglia, cla. Ok, qui. Come adesso? Prova. E avere un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, mi mancano 2 segnali a me. Eri 2 segnali in meno, sì, non ho capito perché. Io non ho giocato nulla, l'antenna è sempre a Mattesi. È strano. Qua è tutto a posto, ho controllato il cavo e tutto quanto è tutto a posto. Non ho toccato nulla neanche io. Non so che ti dica. Lascia così, sarà la propagazione. Oh Lu, ma va l'antenna della mia uguale. Cosa Lu? Ma Luca, se c'ha l'antenna della mia uguale. Boh. E Lu? Allora, mi senti adesso? Sono in ufficio. Guardate, in 3 o 4 io non capisco. Vabbè. Ui, io sono qua. Mi senti da qua, qua? Alla grande. Adesso ho messo il GT5 con l'antenino però del 888. Qual è l'888? Quello senza display Baofeng 888. Ah, va bene, ti sento. Questo però è il GT, il UV5. Baofeng UV5 però con l'antenino dell'888. Questo magari ti va a te vaghi, ti c'è fondo scala. E questo cos'è? 5 credo. C'ha due posizioni. Aspetta, metto la posizione bassa, vediamo un po'. Adesso è in posizione bassa. No, c'è il contrario. Adesso si illumina tutto. Questa è la posizione alta e l'altra è la posizione bassa. Vediamo un po'. In love. Adesso in love. Prima era height, adesso è love. Per fondo scala, sì. Bella. Bella radio. Svecciaretta è Ghiglia. UV5RA, pensa a tu. Vabbè, c'è il display sempre, quelle robe lì. Adesso ti mando la foto. I migliori sono, non hai capito? La roba vecchia è sempre la migliore. Questo 599 della Linco è uno dei B-Banda primi usciti. Fronte inestraibile, 50 watt V, 50 watt in U, c'ha le bande aeree, c'ha la M, c'ha MFM, c'ha le bande aeree, parte da 115 a 200 rotti, da 300 sino a 500 rotti. Capito? Sono i migliori, non c'è niente da fare. Prova, mi senti, 1, 2, 3, prova, mi senti in diretta. Eia. Ehi, ti sto facendo il video per farti vedere la radio. Fa un passaggio, qua. Claudio. Questo è il 599 della Linco. Abbastanza vecchiotto, ma nuovo, nuovo, nuovo. Molto bello illuminato. Microfono MC60. Vedi un po'? È una cannonata, eh. Una cannonata. Una gatta. Tutte i magnendi, si mangia i gacciucci, grazie. Luca, la novella, una ne fasciata. Ah, io piazza di antenna. E adesso mi devo organizzare, vedere un po' come provo, trovare un sistema. Sul tetto non la metto. Ah, mettila lì sulla ringhiera. E lu... Certo, vabbè, ma è passando un tipo con un monopattino elettrico. Certo, che sa sloburo, non ha di autonomia, Porca miseria. Io volevo prendere il monopattino, l'ho visto, bello. 400 euro costa qua, sa tanto è bello, bello massiccio. Ma è più bello che ci fa l'usedile. C'è un amico mio, lo sta prendendo, 150, se ti interessa. Grazie. Sì. Ah, Luca, per l'opportunità con l'usedile è un monopattino. Però solo con lo tubo. Ah, c'è Sardellino. Così mi ha fatto a Fantucci. Sto guardando questo allarme. Adesso cambio le batterie. Invece raddoglia, ripuliamo le carrozze e andiamo a vendere granite. E accompagnare i signorini in Viale Porto d'Orra. Eia, allora c'è le batterie, qui. Curiamo da carrozzella, andiamo. E grazie a la moto tre ruti. Elettrica. Andiamo da carrozzella, andiamo. Uia, di gassi, di garoli. Davvero, davvero. E beh, Lucariello. Attenzione, io vengo vita mia, se tu ascolti Luca, chiede, chiede. Ehi, già ti ascolto, non so se tu ascolti me. Tutti sotto a sede, sede. Senti, ci troppo gondo. E beh, Califo. Califano. Franco. Cacciano dei rotti. Sto cambiando le batterie a questo allarme. Ma la moto è già madre, batterie, grazie. No, ha un allarme che c'ho. Ah, le batterie dello gamma le buoneva. No, le sto mettendo più grosse, così invece di 4 ce ne stanno 3. Ma non si va che batteria del gamma, oh, grazie, che camera è più. Ehi, intanto non è un caso più facile, è una sirena brutta. Andiamo via, andiamo, chi è? Bobo! Sipe. Eia. Olu. Guarda. Guarda cosa ha salvato le bullici. Guarda cosa ha messo. Cos'è, Emanuele? Guarda lì da, negli articoli di Salvatore Billicci, guarda a vedere, ho già visto l'hai. Già mi non ha di... Aspetta che ci entro. Ma si dà per scavare, se si risente, ma è così. Ma io lui, lo vuoi 200 euro? E lui? Eh? Li vuoi 200 euro? E lui? Io pure un portabile, io. Se non c'è... Luca, bacio di ferro! Elu! Luca, gargamella! Cazzo, tre rotte! Per un pugno di dollari! Grazie! Domani ti pongo la batteria dell'impianto solare che va a giro, sai quanti impenni con questa roba? Grazie, una buffetta! Ah, siete che prende la batteria della moto e ruba offre. Ehi, Elu! Sto guardando, hai zitta! Se gli avevo la figura... La lavora. E la porta va? Sì, è sembrato una tappuccia. E me ne aveva uno già la settimana scorsa, o di più. Yes. Anno del 2019. Ebbene! Grazie. Ehi! Ha detto domani ti pongo la batteria dell'impianto solare che va giù, lo sai come ti impenni? Cattiglia! Così vola! Ah, ho visto un filmino di questo ragazzo in questa... in questo parco, giugna sgommata! Cattiglia! Ah, vabbè, è passato un monopattino elettrico! Sono minoriti i batterini! Vabbè, me ne cambio! Lì te ne devi mettere una GM. Mi fai chilometri? No, quelle allo ioio sono le migliori, queste sono al piombo. Allo ioio? Mentre è pigliata a male questa batteria. Ehi, vedono anche le batterie allo ioio. È più leggera, è più potente. Lo sto guardando su internet e devo controllare bene, quando me le cambio le compro così. Sono più leggere come batterie, più forti, più potenti. E la giunta o io ne ha molto. E beh, ha funzionato. Ma io con te ha voglia, io con tu magro, adesso con i zeri. Solo che sei sempre in bagno. Magro come Luca. Ho fatto la battuta. Quando te ne fai dai sa moto, sei sempre in bagno grazie a quella batteria allo yogurt. Luca, dallo zippi. Infatti, ciò ti va allo scarico diretto. Ragazza, stiamo in un cuso come ti va con questa bicicletta, con questa moto. Cazzo, non sei dire. Cazzo, vai in un zappo. Sta andando bene, dai. Ma lo chiamano, ribaltabile, burro. Ah, va, poniamo un carrozzo per vendere granite. Ah, grappa grappa. Sì, ribaltato va, non ribaltabile. Ribaltato pianta su sta casella, va. Sì, già va bene, già. Intanto io con chi sapevi, non vi cammino. E andare chilometri di posto, a radio, un bel. Ok. Eia. Ma il bontigio pronto è bas sabato. Cosa? Il bontigio pronto è bas sabato. Conteggio? Beh, non le fa fare niente, no? Seria, e immagini quella baracca tutto il bello. No, non gliene fa fare, no? Già parlato, già. No, non gliene fa fare. Ha detto una di lampa tutto, boh. Se lo sai tu, mi sai trovato a baciare le sondoline. Ma io te l'ho spiegato, non te che lui le compri e poi no, non le rimborsa i soldi. Senza ve la vai, ci deve essere un riscontro, io te lo faccio e me lo sconti dall'affitto, capito? Se questo non avviene, rimani così. Io sinceramente non glielo avrei pagato l'affitto. Cazzo, faccio tutta la tessatura e mi rimane a cabaret, vado tutto l'inverno, non penso doppio. No, se non paghi l'affitto ti mandano via, non funziona l'uscino. Purtroppo, chi comanda fa legge. Sì, che non si domanda così, lascia perdere che non è così, ok. Ah boh, io non so che contratto ci abbia lui, però bisogna stare sempre attenti. Però cazzo, almeno se sta male lì non si bocca così. Ma va ancora non è nulla, se tanto ne stiamo in vaso blu più. No, io ve l'ho giudito, quando effendevano beh vengo io a farmi la doccia. Prefiro farmi a casa e la scaldare la vasca da bagno. Capito mia? Quando sta piovendo lì non si può andare. È preferibile fartela a casa la doccia, anche chi vedi ti infondi a vero. È un casino. Vabbè dai, continuate, Bianco, per me ci sentiamo dopo, ok? Manco la gardella, avevo uno di ombrellone da mari. Ammetta sì. Che faccio ne c'è? Chiama giù la bicicletta elettrica. No, l'avevo fatta cosa. A Giuseppe è tornato, l'avevo venuta. No, la... Ah, nero. Ah, quella non è la bicicletta, che è lo scooter. La girata a un riconosci Emanuele Zigo, un visirino che mi attesi. Ah, mio cognato l'hai dato, Giomari. Ah, tuo cognato quello, eh. Vai, lo mario di Mesurida. Ma io, cazzo, li conosce il massaggio, a voi lo so, carregano, capito? Ciao, buonasera, Senta, non lo sappiano che era tuo cognato. Mio cognato. Ah, ecco. Cazzo, qui ha l'infemma, cos'è? Cosa le fa sì? Non li tratti. Ma io faccio l'affare, tuo cognato, là. Così che ho visto che sta sempre camminando, tranquillo. No, perché a lui andava bene, sì, perché lui non sa patente né niente, le conviene sì quella lì. A lui gli serveva per andare in campagna, poter mangiare al cane. Se no, ogni volta doveva andare a accompagnarsi in macchina. Ehi, grazie! Ehi, sono qua, già sto ascoltando che sto cambiando le batterie qua. Ma non è presto, dato di dare di questo motore, di questo motore. E allora, la documentazione, allora, pure il libretto, pare un diploma a Bari. Cioè, la matricola è tutto. Allora, dare il premiato, è un diploma. Ehi, sembra un diploma. Ma di te cos'è il cargo? Era il documento là della moto, poi mi hanno mandato anche il dépliant con le spiegazioni e tutto. Va bene. C'è il numero di serie della matricola, c'è un tappo nello scudo a parte in dritto, no? Dico che sul tappo è scritta la matricola, ci vede scritta. Devo per un tappo, è la legge, no? Il numero di matricola della moto e tutto quanto ci è scritto. Ehi, già da me. Avanti che faccio questo cartoncino a chi si batterizza sono più minori. Io ci leggo l'elicottero almeno, Marco, non faccio, non cammino di strada, come cammino all'aria, capito? L'elicottero va bene, io ci leggo. Non vi passo assai tempo qui, so già, ho visto un documentario di quegli scienziati, in quel programma, avanti mi ha messo che programma è. Sono visto nella macchina a volante, va quattro cose, quattro ventre come questi cose che vendono. E salta in aria, stanno facendo le prove con le vetture. Già l'ho vista. Già l'ho vista. Dingo! Giovanni, un attimo, adesso al telefono. Cara, fiorellino, Ciao Mari. Ehi. In campagna mi si fa la luce. Oh, io non ne posso in campagna. A proposito, a cane che è recente di io della sua casa Giulia? Io e mio cognato. Ah, certo. Ma erano se gelosi che si divisino. Gelosi? Era una seconda cosa. E anche la voce mi pare l'abbia fatto coso. scalera, cade la boccia a posto e viene da rifasciato. Sì, ma quando vado a fare diventa popolare, poco da rifasciare vanno. Vabbè, ma crudere le conti chi ci dà, è mezzo gatto. Se lo travaglia è mezzo qui su bisso, dai. Sì. Ah, va bene, va fanno bene, dai. Ah, in pratica se le deve prendere la mazzone, un pezzo, coso, che dove cazzo si abbia molto troppo, si abbia la dovonaggia. E Marco Orde, quello che abita sopra me, sono in tre, sono in quattro, sono. Ah, tu pure di sì? No, io vado via qui, noi siamo in affutto di aiola. Tu gli affiai e Madubulu recitate tutto. Così che, ma è meglio che sia così, che lo deve il gottalo Marco. Oh, ma ad esempio è morito subito, così che ma magari lo darebbe pure da cura. È giusto che se al Marco vada una cosa pulita. Quello lì lo puliva sempre mio fratello, quella viola lì. Lo puliva sempre mio fratello. Certo. È un po'. Anche visto che erano recintenti. Così che ha detto, ma sai c'è la boccia, la boccia buona. Ma in tabacchi hai spacciato tutto quanto lo zoccolo che avevi fatto, tutti spacciati chi. Io bisogna prendere il mattone d'oro, no? No, rimette quel coltello che usano per i divisori delle strade, Giomarino, mettono quel coltello lì a Romanco, rimane più forte. Quello sì. Va bene, va bene. E arrivando la Dianina, cos'era di combinetti? Non per Sabillo, cos'era di combinetti con Fiorellino? No, dovevamo sistemare delle cose, Giomari. Ma un'oretta, poi era mezzogiorno e mezzo era a casa. Ah, ecco. Tu l'hai messo a posto? Eh? Tu l'hai messo a posto? E cosa? Era di mettere a posto la questione. No, ma non cose di radio, no, altre cose. Ah, e se va quello io? No, non c'entra niente la radio. Vabbè. Cazzo. Allora si è andato d'accio. Sì, l'ha accompagnato a me, mezzogiorno e un quarto era a casa io, e poi lui se n'è andato. E io ho visto così, me lo sono salito. Ti raccoglio che si è trattenuto un bel oggi, chiacchierando, per cui, abbiamo ammazzato un'oretta, dai, e già va bene. Ah, va bene. E domani non vi so con il manco. Se devo uscire alle 9, alle 10, a mezz'ora dovrà seguire al Palazzo Rosa. Insomma, gli impegni sono più importanti di tutti, dai. Questa è la cosa più importante. E io voglio mangiare, non c'è. All'8 e mezzo ero in officina, ma ci faccio già ballozzo alla macchina. La cartuccia e cose, il liquido del radiatore, tutti dopo. Così che. Ari dopo gli avevo visto che ero. Già mai visto quando le razzetti gli dà. Ha fatto impresa, eh. Ah, da l'Inta sei? No, da cosa? Da. Da l'Intas non l'ha fatto. Sì, l'Intas. Ehi. Sì, infatti da giudicazione di che non pensavo che eri lì però. Infatti. Così che. No, me l'ha posto direttamente l'Intas, capito? Qui lui era per un travaglio, altro travaglio. L'Intas era te, se l'ha posto a Monte e mi ha fatto tutto, capito? Ah, poi mi devi chiamare la patina di lo display che si è bruciata e non vengo di chilometri in fosso, capito? Ah, ma la che dai che ti ha marito a fare la fila e me la giamba, capisci? A chi vorremmo di montare? Beh, su quello scotto. Ma non è che qualche fusibile, Giovanni? No, no, è la padina, eh. Era la padina, capito? Però la padina i chi, per cui... è solo questa, capito? Solo questa bruciata che lo attendi, capito? Dici che lo sai, nei cazzi chilometri fai, nei cazzi chilometri hai fatto, capito? E col chilometro funziona, ma sotto ti segna i chilometri che fai e quello che c'hai, i chilometri, capito? Ed è bruciata la lampadina, non ci vede nulla. E ma dici che me la giamba la chissà che entra. Sì, un attimo, vedi già fate un'impresa a ciamballa, perché sanno come fare. Subito, ragazzi, non so cosa sei, dico per montare a mezzo cruscotto, ma faccia la lampadina ai chimica, c'è un casino, capito? È un casino. Però l'ho fatto e basta, così che hai già me la fatti. E dice che la chita che entra, mi paro e ricucato mi strabuzzo e me la fate, capito? E beh, non lo manco. Ah, ancora no, l'appuntamento ti dà per farlo. Oh, a me mi ha detto la chita che entra, chi la va, chissà chi la va a un bel travaglio, capito? Però mi ha detto, passa l'uno a Marchi e così che ti do ricucato la ragamina, capito? Lui ci mi ha detto. Capito mi hai? Ehi, hey, Gio Mari, aspetta che sono a porta. Bim bum bam! Beh, c'è nessuno qua. Pronto. Tutti fuggiti so! Fuggiti so, grazie. Ehi, vabbè. Aspettiamo. Chi è che non sei uscito? Chi è? Avanti, c'è posto. Beh. E fra poco devo andare a fanciulina a sta signora, alle 7:20. Alla buntura, grazie. Ma sta uscendo? Claudio Catarella. Luca Britella. Claudio Cucoma, grazie a un gufo pasticcino. Tre ruote. Insomma, sta batteria bossa a posto, ragazzi. Grazie. Sì. Messo a posto lei questa batteria? Nella moto o no? La devo controllare. Domani. Sì, di questo antifurto sì. Le ho cambiate, ma sono minoretti ancora. Dice, li ho pigliati più mani. Li ho messo per il cartoncino, già funziona lo stesso. Oh, claro, ma la batteria allo yogurt, Graziano. Allo yogurt? Cazzo, cos'è? Ma te lo io con Don Giumenti. Grazie, ma cosa c'è? Fa vedere l'entrata della fattrice. Ti tengo centrifugando. E pigliene lo volo, un elicottero, la centrifuga. Siamo una lampada noi, grazie. Funzionava, mi entrava impazzita, mamma. Fai troppo casino, te la compro nuova io. E io ho comprato la nuova, troppo casino, troppo. Era troppo rumorosa, non si poteva. Ma vedi se la stendi a Blu di Manzano? Ah, non la stendi più, ha detto. Mi è staccato il motore, mi ho fatto venire quelli che la ritirano là, quelli che sono portata nuova, arrivi di vestire in pressa, va, mi ha chiesto di fazzire. No, ma quando inizia ad essere così rumorosa ci vuole lampada, ci vuole un cuscinetto, un sacco di soldi ci vuole. No, mi la tengo, tanto l'ho messa nel terrazzo, l'ho messa. Penso la mamma, da 7 kg, che gli va più che bene, 5 anni di garanzia. Ho speso qualcosa di più di soldi, già ho fatto 2 anni a 5. E che marca è? Indesit. Ah, la voglia di andare. Questa cazzo mi la becco. Ma lo si chiama la checco, boh. No, va bene, anche io ho la Indesit, lui, va bene. Chi sei di marca grande? Ed è 8 kg. C'è Pandoro. Grando si chiama, Grando Made in Italy, che è A più. Cosa è già due yacht, Grando? Già due yacht sono Grando, vero? Allora, Grand Loop, Duplo, vai, puno. Che c'è casinetta che è? Ma quant'è la batteria allo yogurt? Ma non sarà titanio, non allo yogurt? Mette il detersivo e là vai fino alla zona, solo mia moglie è zaccuto 31. Allo. Più mano dieta e mai ballato lo cuscinetto, ma già funziona, la lascio fino a che funziona, la buia, c'è la lampo. Ah claro, che c'è un tasto potete stare la zona, buca si non fate la zona. E per quello l'ho messa nel terrazzo, non hai capito. Cioè c'è una veranda, c'è il coperto. Così Trento non si intende. Ma io si intende il volo, Baro. Spero un elicottero, Bari. Cazzo, si beve un facciato di denchi. C'è le 18, va giù, uscio. Una volta l'ha attaccata a Gigi Manzano. L'altra volta l'ha attaccata a Rigetti. A voi do la Gigi Manzano. Adesso la volta non l'ha attaccato più. A chi ne ha trovato il contatore? No, ma io la attacco durante la giornata, capito? La notte, la giornata sera, una notte. E domani me ne ha rimaniato il capo. Non sai quanto si sente nei piani di sopra? Un casino, intendi che tu ma che cazzo vuoi che tu? Ma la roba la matta alle 6 del mattino, ma stavo andando a lavorare. Ho sceso le scale a piedi, ho appoggiato la testa, cazzo, ci intendi la lavatrice andando a tutto andare, dico, ah, tu usci, agite, ti senti mai giù io. Guarda che anche qui, da quella del primo piano al mio, quella la tassa tutte le ore, non sai quanto si intende, però faccio tu. E chi mi tutta scassinata? Sì, ma non va bene però, sono le ore stabilite nel condominio, capito? I lavori si possono fare da dopo le 8:30 fino a mezzogiorno e mezza, massimo l'una, e poi dalle 4 alle 6, se ti vuoi trattenere, 2 ore, boh, basta, finito, in condominio, condominio, poi fuori dal condominio è un'altra cosa. E la stessa cosa sono i rumori, capito? Noi puoi accendere la lavatrice, se è silenziosa, una lavatrice nuova, che non si sente, la puoi anche accendere alle 6 del mattino. Cazzo, ma io ti voglio un trattore. No, io questa è la... Siccome ce l'ho l'attacco anche nel bagno, ce l'ho proprio in bagno. Da là poi se me l'ha infondato il cuscinetto e ne ha giocato pure in terrazzo. Così non disturba. Vabbè, non disturba te, grazie, ma già disturba fuori, non ti preoccupare. Già la sentono fuori. A voglia se la sentono. Sì, ma di meno di tenerla dove la dentro, nel bagno. Il bagno vibrava a duccio. Era un terremoto. Figurati. A voglia. Vabbè raga, dai, io vado a prepararmi che sono 7:20. Io me ne esco un po' col cane prima che fossi a Eva, perché la giornata non promette niente di buono, dai. Ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Ehi, vabbè Luca, io ando a fare l'infermiere, il ginecologo. Ci sentiamo fra 10 minuti, là. Non lo so se ci sono, grazie, devo cenare e poi devo prendermi il tram, da. A domani, ciao anche a Claudio. Ciao a tutti, ciao, a domani, grazie, ciao, a domani, ciao, entra, sono da Paoletta, anche da parte di Marina, ciao. Ehi, ciao, è di Sesanelletta, ma di TV. Aspetta lui, che passa lì le caramelle adesso. Gio Maria, caramelle, via. A mummio quelle dure. Vabbè, ciao. Ciao Gio. Va bene, allora domani. Oh Gioia, il ginecologo. Te la piazzuccio, ciao. Hola. Ciao. Oh Gioia. Chi è? E avanti! Beh, buonasera circolare a tutti! A domani se coincide! Ciao! Cacciano tre rubi! Sto chiudendo, mi guardo quel programma Nudi e Crudi! Non te lo guardi mai! Al canale 52! Ma c'è per amate se cosa! Te ne serve carne di asinello? Fettine tenere e morbidissime! Ehi, tu ce l'hai. Ehi, però l'ordine entro oggi, sennò poi alla prossima settimana. E a quanto sono? A 12. E portamelo un chilo. da te non rimagno, rimaniamo in musica. Ehi, dai, ti faccio sapere dopo, se non è troppo tardi per l'ultimo, ok? Ehi, ya. Vabbè, ciao ciao. Ciao, fammelo sapere. Ehi, ti mando il messaggio. Dimmelo, già sono qua.